Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che è la terza parte di Eclettica di questa settimana. Ci ho pensato un po', ma alla fine ho deciso di dirvelo, perché mi sto rendendo conto che, nonostante il mio impegno, non possa non trasparire in onda uno stato d'animo che mi porto dietro da qualche giorno. Non spaventatevi, è semplicemente qualcosa di molto personale che non può non toccare, non può, al di là del tentativo di impegno professionale, comunque influenzare la messa in onda e soprattutto il dover parlare di fronte a un microfono. Purtroppo la vita ci mette di fronte delle prove difficili di tanto in tanto e... Ed ora è toccato a me, però vedo di proseguire e di farvi come al solito compagnia con la mia musica e le parole e i film che vi scelgo di settimana in settimana. Un giorno, ero già avanti negli anni, in una hall mi è venuto incontro un uomo. Si è presentato e mi ha detto: la conosco da sempre. Tutti dicono che da giovane lei era bella. Io sono venuto a dirle che la trovo più bella ora. Preferisco il suo volto devastato a quello che aveva da giovane. Penso spesso a un'immagine che solo io vedo ancora e di cui non ho mai parlato. È sempre lì, fasciata di silenzio, e mi meraviglia. La prediligo fra tutte. In lei mi riconosco, mi incanto. Questo era L'incipit dell'amante di Marguerite Duras. Not every lover's patty kiss, not every sad mystic replace. If you can love my growing gun, my royalty teeth and green hair, then I can guarantee I'll do the same as long as you can bear. You love my wealth and my skinny arms and weak feet. The way I dance, the way I eat. If you love the moon and stars, I try and squeeze before you're up to see. Each torn ankle, each weak knee. Still my moods must swing to solitude, I must still cling. And you won't love me every day and suffer many a display. My place may smash and doors may slam, my corners may be less than kind, but that won't mean I've changed my mind. I'm a happy. Times I love to sulk and share and squeal, but please don't do the way I feel. Cause when the sun burns up the earth, the progeny will raise a cannon. Here's to where it all began. And every day I hear the world is cracking up, the end is near. I hear we all should live in fear. We'll be right back. tornadoes, earthquakes, tidal waves, heart disease and strokes. Terrorists with homemade poisons, factions everywhere. They're drinking in the streets, they could steal your name. Sembrerebbero di Oxford dal nome, ma è un inganno. Il collasso di Oxford, Oxford Collapse, invece sono di Brooklyn, New York City. Sono arrivati al terzo disco e per questo terzo disco hanno siglato un contratto con la Sub Pop, che finalmente sembra aver trovato un gruppo degno di nota. Sono un po' cattivo nei miei giudizi, do sempre attenzione e un minimo di spazio alle produzioni Sub Pop, però era da tempo che non avevo così piacere nel mettere un disco dell'etichetta di Seattle con convinzione. Remember the Night Parties, questo è il titolo dell'album degli Oxford Collapse, e Please Visit Your National Parks è invece il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati. Si rimane negli Stati Uniti con una misconosciuta etichetta e un'altrettanto misconosciuta band, infatti sono all'esordio. L'etichetta è la Light in the Attic, loro sono un sestetto, provengono da Austin, Texas, si chiamano The Black Angels e c'è un album d'esordio dal titolo Passover, ma c'è anche un singolo d'esordio dal titolo The First Vietnamese War. Tell you something, I'm really excited about it. For the first time today, I woke up, I came to the store, and I feel confident to say to you that if you don't take this Michael McDonald DVD that you've been playing for 2 years straight off, I'm going to kill everyone in the store and put a bullet in my brain. David, what do you suggest we play? I don't care. Anything. I would rather watch Beautician and the Beast. I would rather listen to Fran Drescher for 8 hours than have to listen to Michael McDonald. Nothing against him, but if I hear Yamo be there one more time, I'm going to Yamo burn this place to the ground. Such a smartass. Get back on the floor. Oh, fuck you. Yeah. Che dire, nient'altro che... è bella questa canzone dal titolo Dear Flies Love Spider, The New Yorkese The Low Lows, Fire on the Bright Sky, è il titolo del loro album che esce per la Monotram Records. Ci trasferiamo in Svezia, da cui proviene un artista che esordisce con un album dal titolo Until Death Comes, esordisce per la Secretly Canadian, lei si chiama Frida Hyvönen, è già conosciuta parecchio in Svezia ed ora sta cercando spazio anche all'estero, accompagnando tour di artisti suoi conterranei, come per esempio il ben conosciuto da parte nostra, eclettiche ed eclettici, Jens Lekman. Ci ascoltiamo Drive My Friend. I drive my friend to the station, it's the second day of June, wearing white thin leather gloves and a headache from last night. Now you do the talking and I'll keep us on the road. I am transporting a treasure, here I am, making sure that he gets on. The sun is shining, I have everything, the strength to see him off with a promise of his return. Turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn, turn. Last night we were drinking in a tiny bar. Suddenly never felt so good before. I'd never claim you, but I want you till I'm gone. Want you to walk straight through and want you to be more and more. The clouds aren't crying, they look down on me. Who'd wait a million years for your return? Turn, turn, turn, turn, turn, turn. Got no extraordinary cards in my hand, no words or actions to make a stain. You like to be up north and I like it down here. Love, isn't it just like air? You breathe it and it's everywhere. The sun is shining, I have everything. A driver's license, a car and a song to sing. Sing, sing, sing, sing. Spettatore che c'è nel rincorrerti e sento che c'è, brucia veloce, come se quel raggio che traspare dalla tua magia vocale riscaldasse le mie idee. Dolce netta musa inattaccabile, non ti scomponi, invadi alla sistematicità. Mentre già combatto ogni respiro, dormi morbida, ti adoro, me ne sto seduto qua. Contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri, perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare per potermi ritrovare nella mia stabilità? Ora che ho confuso ogni sentiero, trasportandomi nel vero della passionalità. A contemplare le magie di ieri, a ricordare quando tu non c'eri, perché se non ti conosco è come se già ricordo di te. E sei estasi pura, pura. Quanti mari devo attraversare? Quanti mari devo attraversare? estasi pura. L'estasi pura dei Primo Chef del Cosmo, gruppo sassarese che esce per Desvelos e che regala questo EP d'esordio, lo regala a chi va a vedere i loro concerti. Bella, bella questa cosa, è molto, molto allineata con i tempi attuali. Si chiude questa terza parte di Eclettica con Miss Kaneki da Collision Time, questa è Under My Skirt. Under my skirt there's a rainbow that's toxic. My skirt, there's a dog that bites. You might lose an eye, or you'll burn your fingers. But hey, boy, you should try. I never eat fruit, I only drink coffee. I can't sleep at night, I just stare outside, sitting upright in a chair by the window. Well, hey, boy, you should try to fall in love with a girl like me. You should. There's a wood made of plastic. Under my skirt, there's some sounds that swell. Eclettica, fine della terza parte.